Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. Allora, generalmente è una stagione che non ha mai fine, ma con l'arrivo dei CUD in busta paga è ufficialmente partita la stagione dei redditi 2009-2010. La stagione della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Ci sono i precisini che sanno tutto, ci sono invece i lavoratori contribuenti che si trovano questo documento in mano, lo hanno preso con la busta paga allegata naturalmente e si sono detti: oh mamma mia, adesso che cosa devo fare? È una situazione ricorrente ogni anno per molti di voi, per molti di noi. Nessuna paura, perché questo è il documento con il quale l'azienda vi informa quali redditi avete percepito lo scorso anno e questo è il documento di base con il quale fare la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Quindi è tempo di mettere ordine anche fra tutte le spese che avete sostenuto nel 2009 a vario titolo e con questa documentazione naturalmente potrete accertare se avete diritto di detrarre queste spese dalla dichiarazione, in modo tale anche da renderla un po' più leggera. Facciamo qualche esempio: avete ristrutturato casa, avete sostenuto delle spese mediche, insomma mettete tutto da parte e poi portate questo materiale, questa documentazione o al vostro sostitutore imposto, al vostro commercialista che vi aiuterà naturalmente a fare il vostro 7:30. E allora, se è un tema che vi ponete in questo momento, noi stamattina cercheremo di darvi qualche aiuto su come presentarvi in regola, con tutte le carte in regola appunto, a questo appuntamento. E questa mattina ci aiuta la dottoressa Maria Luisa De Cia, presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Buongiorno e benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. Allora, naturalmente microfoni aperti come sempre alle vostre domande che ci potete rivolgere all'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Vi daremo la tempistica degli appuntamenti, delle scadenze fiscali di quest'anno, insomma faremo anche un po' di punto della situazione sulle cose che abbiamo fatto lo scorso anno e che quest'anno magari ci dobbiamo ricordare. Per esempio, ricordiamoci che a novembre abbiamo versato un acconto IRPEF che quest'anno era di una percentuale diversa rispetto al solito, quindi in qualche maniera lo Stato ce l'ha reso più leggero, ma adesso con questa detrazione più leggera dobbiamo fare i conti a giugno, esatto. Per cui anche da questo partiremo. Prima di partire con la dichiarazione dei redditi di quest'anno, abbiamo cominciato molto presto, poi naturalmente come sapete spesso facciamo anche delle puntate con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore, non appena saranno pronti con gli speciali di quest'anno ovviamente torneremo anche su questo argomento, per cui ci approcciamo alla dichiarazione dei redditi in maniera molto graduale quest'anno. Prima di partire con questo tema, come sempre diamo un'occhiata alla borsa che questa mattina è incerta, il quadro è negativo su tutte le piazze, ci sono le prese di beneficio abbastanza attese dopo i rialzi degli ultimi due giorni, però insomma c'è il segno meno, ma un segno meno tutto sommato contenuto. -0,16% sulla borsa francese, a Francoforte -0,14%, Londra -0,02%. Milano stamattina è arrivata a perdere quasi mezzo punto dopo essere partita positivamente, adesso perde lo 0,20% e parlo del FTSE MIB, il principale paniere di Piazza Affari. Rapporto euro-dollaro a 1,36,23, abbiamo in evidenza a Milano CIR che continua a correre +3,28%, Fondiaria +2,93%, Buzzi +1,40%, Finmeccanica +1,24%, Geox +1,10%, abbiamo un rialzo di un punto per Unipol ma anche per Autogrill, mentre continua a scendere Luxottica da due giorni fortemente penalizzata dagli investitori dopo la presentazione dei conti di due giorni fa. Prysmian -1,16%, oggi si riunisce il consiglio di amministrazione per l'approvazione dei conti. Mediaset perde un punto anche Intesa -0,9% per Pirelli. Cosa dobbiamo ricordare? Che domani si riunisce la Banca Centrale Europea, sui tassi probabilmente ci sarà un nulla di fatto e poi soprattutto siamo alla vigilia della presentazione del dato sulla disoccupazione americana venerdì prossimo da Wall Street. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, insomma cominciamo a scaldare i motori per la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Da pochi giorni è entrata a pieno regime la stagione della dichiarazione dei redditi. Ad avviare il meccanismo della macchina fiscale è stata la consegna della certificazione unica da parte dei sostituti d'imposta o degli enti pensionistici, attestante i redditi erogati nel corso del 2009 ai dipendenti o ai pensionati, come sempre in allegato alla busta paga in duplice copia. Quest'anno però l'appuntamento dovrebbe essere più semplice a misura di contribuente, così come promesso dall'Agenzia delle Entrate. Non solo per quanto riguarda il linguaggio utilizzato, ma anche per la compilazione. Nella versione 2010 sono infatti stati sistemati definitivamente gli spazi idonei per indicare, ad esempio, l'ammontare del bonus famiglia, i contributi versati dai dipendenti alla loro prima occupazione per le forme pensionistiche complementari o la detrazione IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ma la novità principale è rappresentata dall'obbligo di indicare tutti i dati dei familiari fiscalmente a carico nel 2009. Da quest'anno, inoltre, il sostituto di imposta può scegliere se inviare la certificazione al contribuente in formato elettronico. Una modalità, quest'ultima, che potrà essere dunque utilizzata solo da quanti siano in grado di ricevere e stampare la certificazione via email. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione per le vostre domande. Dottoressa De Cia, presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, questa mattina a disposizione dei nostri ascoltatori. Allora, è un obbligo per le aziende rilasciarci il CUD, ma... Certo. Qualche volta qualche azienda non lo fa, dottoressa De Cia, è corretto? No, non è corretto. Il datore di lavoro deve mettere il modello CUD e consegnarlo al lavoratore entro il 28 febbraio di ogni anno, tranne quest'anno che è stato prorogato al 1 marzo perché il 28 era domenica. E quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare ad ogni lavoratore che ha prestato attività lavorativa il modello CUD, col quale appunto certifica tutte le imposte che sono state trattenute e tutti i redditi che sono stati erogati. Nel caso di un... ci terrei a precisare questo, che oltre a questa scadenza obbligatoria per il datore di lavoro, nel caso il rapporto di lavoro cessi in corso d'anno, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro l'emissione del modello CUD per i redditi percepiti fino alla cessazione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al lavoratore il modello CUD entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore. Questa è una precisazione molto importante, proprio anche alla luce del frangente economico che stiamo vivendo, molto complicato, che certo. Ha portato molte aziende a chiudere, per cui qualche volta c'è anche da dire che se un'azienda non è in regola con l'ordinario, con quella che potrebbe essere ordinaria amministrazione, come quella di preparare un CUD per un lavoratore che magari non lavora, non è così. Si gestiscono a volte certe situazioni di emergenza che portano ad altre difficoltà a domino. Volevo far partire le domande nella seconda parte di Salvadanaio, dottoressa De Cia, ma ne abbiamo una proprio a questo proposito. Io allora direi di sentire subito Rosa da Bari per capire come mai il CUD non le è stato consegnato e credo che sia proprio uno dei casi che stiamo descrivendo. Rosa, buongiorno. Buongiorno. Sì, che cosa le è successo? Praticamente la nostra azienda non ci paga gli stipendi da un bel po' di tempo, prima diciamo della fine dell'anno, diciamo da ottobre, quindi non abbiamo ricevuto busta paga, né tantomeno io mi aspetto che ci consegni CUD. Certo. E il problema è che manca, come dire, la prerogativa fondamentale per fare la dichiarazione dei redditi. Non avendo ricevuto buste paga, per questa azienda non può quantificare il reddito complessivo che ha, come dire, erogato ai lavoratori lo scorso anno, dottoressa Ricci. Quanti casi le sono capitati quest'anno di questo tipo? Purtroppo. Per fortuna per ora nessuno. Per fortuna. Però effettivamente ci sono situazioni in cui le buste paga non vengono emesse, ma non viene neppure erogato il compenso. Pertanto, per quanto riguarda l'obbligo fiscale, quindi la tassazione fiscale, dovrà avvenire solo ed esclusivamente sugli importi effettivamente percepiti. Quindi in questo caso il lavoratore potrà, ovviamente è consigliabile che ci sia il supporto o di un professionista abilitato, ovvero di un CAF, potrà, o anche del sindacato eventualmente, ricostruire quella che è la situazione reddituale del 2009 e le imposte effettivamente pagate attraverso le buste paga che effettivamente ha il lavoratore. Certo, possiamo magari sentire Rosa se si è mossa in questo senso con magari i suoi colleghi. Rosa, voi come state dialogando anche con l'azienda per capire qual è la situazione? Noi aspettavamo insomma che l'azienda ci fornisse questo documento. Chiaramente non avendo più un rapporto giornaliero con l'azienda, chiaramente le domande insomma si fanno quando si va in azienda per altri motivi. Perché chiaramente siamo proprio sospesi. Certo. Rosa, adesso insomma il punto da fare per questa situazione è anche piuttosto delicato. Detto questo, ammettendo appunto che un'azienda navighi ovviamente in acque normali e quindi abbia rispettato e ottemperato al termine che è fissato per legge di presentare in allegata la busta paga il CUD alla fine di febbraio. Che cosa ci facciamo con questo documento, dottoressa Recia? Beh, innanzitutto, se il lavoratore non ha percepito altri redditi all'infuori dei redditi da lavoro subordinato e ha prestato attività lavorativa per l'intero anno, quindi per 365 giorni, può tranquillamente archiviarlo. Consiglio di archiviarlo perché nel modello CUD, nella parte C, è evidenziata anche la situazione previdenziale, quindi vengono indicati i mesi per i quali sono stati effettuati i pagamenti dei contributi e qualora in futuro non dovessero avere riscontro con i dati dell'INPS, dell'Istituto di Previdenza, può essere utilizzato per chiedere il riconoscimento della contribuzione per eventuali periodi mancanti. Quindi invito tutti a conservare sempre i CUD di tutti gli anni. Eh sì, perché qualcuno anche, tra l'altro, la tentazione magari dice: insomma, ormai non quella di due anni fa non mi serve più, ma è meglio invece questi documenti averli sempre ben conservati. Il modello CUD è sempre opportuno conservarlo. Quindi diciamo che la situazione si esaurisce con il CUD se, per esempio, non ho effettuato nessun tipo di spesa da detrarre o dedurre, e per esempio se non ho svolto attività collaborative esterne al mio lavoro dipendente, o se non posseggo redditi di fabbricati al di fuori dell'abitazione della prima casa, perché comunque l'abitazione della prima casa è sempre esente, o non ho altri redditi di fabbricati o altri redditi di terreni e quant'altro. Però è abbastanza difficile che si verifichi una situazione così lineare, o qualche volta capita, però ritengo che normalmente uno scontrino della farmacia piuttosto che una visita specialistica o una polizza assicurativa o qualche altra spesa che può essere dedotta o detratta dalla dichiarazione dei redditi venga effettuata nel corso dell'anno, indubbiamente. Tra l'altro, un'altra bella questione che adesso ci risolverà, perché io guardi, nonostante abbia fatto questa trasmissione da 6 anni a questa parte almeno 20 volte, a differenza, se io dovessi indicarla ai nostri ascoltatori tra deduzione e detrazione non riesco mai ad indicarla correttamente. Eccoci ritrovati. Allora, siamo partiti con un bel anticipo quest'anno, però insomma, siccome poi quando ci ritroviamo a fare la compilazione del 7.30 ci agitiamo perché magari non troviamo più documenti che attestano pagamenti e versamenti fatti lo scorso anno, quindi tutto ciò che serve al commercialista per compilarla correttamente, allora abbiamo deciso quest'anno di partire con un po' di anticipo e cominciare a sollecitarvi su questo tema. Fate ordine le vostre carte nella vostra documentazione per andare o al sostituto d'imposta o ad un CAF o dal commercialista, appunto, ben preparati in modo tale che la dichiarazione dei redditi si possa fare in tutta calma e soprattutto possa essere fatta, appunto, ovviamente in maniera corretta. L'azienda qualche giorno fa, almeno nella maggior parte dei casi, poi abbiamo scoperto che in certi casi difficili così non è stato, ci ha consegnato il CUD, che è quella certificazione dei redditi che abbiamo percepito lo scorso anno, insieme a quella documentazione, tutta la certificazione che testimonia e documenta le spese che abbiamo sostenuto lo scorso anno. Possiamo, appunto, con tutto questo mole di documenti fare la nostra dichiarazione dei redditi, quindi capire se possiamo rendere più leggera il versamento delle nostre imposte quest'anno oppure in certi casi invece renderla un po' più pesante. Dottoressa De Cia, certo, la nostra consulente di questa mattina, non è detto che vada solo in alleggerimento. Assolutamente. Dei casi ovviamente in cui magari un lavoratore dipendente può fare delle collaborazioni con altre aziende, prestazioni occasionali, per cui deve pagare le tasse anche lì. Certo, deve unificare i redditi. Parlavamo prima della cassa integrazione, della mobilità e quant'altro, e non dimentichiamoci che queste somme che vengono erogate dall'INPS ai lavoratori che sono in una situazione di disagio professionale devono comunque essere dichiarate. Quindi anche quelli saranno da sommare a quelli che sono i redditi certificati con il modello CUD. Pensiamo per esempio ai rapporti di lavoro che si sono interrotti nel corso dell'anno, se non è stata fatta l'unificazione dei redditi in sede di conguaglio di fine anno da parte dell'ultimo datore di lavoro, dovrà necessariamente essere fatta una dichiarazione dei redditi, quindi dichiarazione 730 nel caso specifico, unificando i redditi anche del precedente datore di lavoro, quindi si vanno a sommare questi redditi. No, tra l'altro questo è un aspetto interessante, ammettendo per esempio lo scorso anno che una persona abbia fatto lavori, abbia prestato appunto la sua opera per 3 datori di lavoro diversi. Certo. Al termine di ogni rapporto di lavoro l'azienda è tenuta, nei tempi che ci diceva prima, sì, i 12 esatto. giorni a rilasciarci il CUD, esatto. in modo tale che possa utilizzare tutti questi documenti. Sì, in questo caso è possibile chiedere al datore di lavoro finale, cioè quello che è in essere nel mese di dicembre e che elaborerà la busta paga del mese di dicembre, di tener conto dei redditi prodotti anche dai precedenti datori di lavoro, ovviamente mediante presentazione al nuovo datore di lavoro dei precedenti modelli CUD. Quindi l'ultimo datore di lavoro l'ultimo si ritrova un onere lavoro, in più. Esattamente, un ulteriore onere. Effettuerà il conguaglio di fine anno e a questo punto il CUD finale che viene emesso dall'ultimo datore di lavoro conterrà anche le indicazioni dei precedenti datori di lavoro. Quindi in sostanza io adesso non devo andare dal commercialista esatto, con 3 CUD diversi, basta l'ultimo. Esattamente. Si può verificare questo perché va indicato nelle annotazioni che è la quarta pagina del CUD anche il codice fiscale dei precedenti datori di lavoro e questo appunto certifica che è avvenuto il conguaglio di fine anno. Allora andiamo ancora alle domande dei nostri ascoltatori riprendendo da chi avevo annunciato, Vincenzo da Caserta, che saluto. Vincenzo, buongiorno, buona giornata. Buongiorno a tutti e concedetemi grazie di esistere. Grazie a voi Vincenzo che animate sempre in maniera molto costruttiva le nostre trasmissioni. Ma siete completi non solo in economia, in tutto. Grazie, ci dica tutto. Allora, niente, io chiamo in merito alla situazione di mia moglie. Dal 1 giugno 2009 è entrata in cassa integrazione. Quindi dal 1 giugno sta erogando l'INPS. Da premettere, già l'anno scorso, quando ho fatto il 7.30, perché ho anche il mutuo, praticamente il mio commercialista mi ha parcheggiato i soldi, cioè ha detto se fai il 7.30 rischi poi di perdere tutto, e me li ha parcheggiati, mi ha fatto fare il 7.40. Adesso dal 1 giugno sta in cassa integrazione, però è una cassa integrazione a rotazione, cioè la fabbrica sta ancora con poche commesse ma stanno lavorando, quindi sono dei turnisti che lavorano. Volevo sapere, il CUD ancora non è stato consegnato e poi non lo so che è l'INPS che dà il CUD quest'anno, visto che dal 1 giugno sta pagando lui. Allora, poi come posso fare per recuperare anche i 900 euro dell'anno scorso allora, che dovevo? No, le dico subito, guardi che ci sta mettendo a dura prova, adesso non so se riusciamo a darle una risposta esaustiva, magari poi esaminiamo un po' più nel dettaglio la sua situazione. Diciamo che la dottoressa De Cia è un po' perplessa sulla questione del parcheggio della questione dell'anno scorso, non abbiamo ben capito, cioè praticamente la detrazione sul mutuo, la parcheggiata, Vincenzo, una cosa del genere. Allora, non ho capito bene che cosa è successo. Allora le spiego, signora Rosciani. Sì. Allora io in pratica io ho una busta paga piccola. Sì, quindi non è capiente. Io ho un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sì. E la mia busta paga è 600 euro. Sì. Anche se sinceramente parlando non percepisco questo. Benissimo, non apriamo quest'altra parentesi. Vai. Ok. Però adesso mia moglie ha detto se la faccio mettere sulla busta paga, perché gli anni precedenti il 7.30 lo prendeva sulla busta paga, quindi il datore di lavoro di mia moglie. La liquidazione, perché, sì. Perfetto, quindi i soldi vengono dati sulla busta paga di mia moglie, gli altri anni il 7.30. Quest'anno, siccome lui, il datore di lavoro suo che è entrato in cassa integrazione, praticamente ancora da premettere che deve ancora saldare il mese di aprile e maggio del 2009, che il 1 giugno è scattata la cassa integrazione. Quindi lui deve dare ancora le buste paga di aprile e maggio del 2009. Quindi lui mi ha detto non rischiamo di fare il 7.30 perché dopo lui praticamente rischiate di perderli. Perché stanno in una situazione in affanno, loro lavorano nel tessile. Benissimo, fermo lì Vincenzo, qui... adesso intanto sulla base di queste poche informazioni sentiamo che tipo di consulenza ci può dare la dottoressa De Cia. Allora, intanto capire se, come dire, può... Da dove partiamo? Sono un po' in difficoltà. Il caso, tra l'altro, neanche complessissimo. No, io direi che innanzitutto la dichiarazione dei redditi può essere fatta anche in forma 7.30, sto parlando, può essere fatta anche in forma congiunta. E quindi non è necessario che sia il coniuge, nel caso la moglie, che effettua la dichiarazione come dichiarante, ma può essere anche il marito pur percependo un reddito, come dice lui, di 600 euro. Quindi eventualmente, per esempio, per abbattere gli oneri sul mutuo, possono farlo a metà? Possono fare la dichiarazione entrambi e eventualmente la parte di credito che compete alla moglie può recuperarla nella busta paga anche il coniuge, il marito nel caso specifico. E ci tengo a precisare che nella cassa integrazione a rotazione, e presumo ci sia la partecipazione da parte dell'INPS, quindi pagamento diretto da parte dell'INPS della cassa integrazione, quindi anche l'INPS emetterà un modello CUD che insieme al modello CUD che il datore di lavoro dovrà emettere per la parte a rotazione, quindi di prestazione dell'attività lavorativa, dovrà essere unificato e a quel punto dovrà essere effettuato anche il conguaglio delle imposte e verosimilmente con l'unificazione dei redditi, perché l'INPS non tiene conto di quello che è il reddito che il soggetto in cassa integrazione già percepisce dal datore di lavoro e quindi applica le aliquote più basse della tassazione fiscale. A quel punto, unificando i redditi, verosimilmente non sarà a credito o comunque ci sarà un esborso. Va valutato. Resta comunque confermato che il credito dell'anno scorso, che è stato virgolette parcheggiato, come dice l'ascoltatore, potrà essere inserito nel credito di quest'anno, nella dichiarazione di quest'anno. E qualora non dovesse essere ulteriormente capiente, può sempre presentare la dichiarazione dei redditi e eventualmente parcheggiarlo ulteriormente. Questa questione del parcheggio, le dico la verità, mi giunge completamente nuova questa mattina. Io pensavo che il parcheggio, una detrazione persa per incapienza del reddito fosse persa. No, perché qualora per esempio un contribuente sia privo di occupazione nel periodo giugno-luglio, che sono i mesi nei quali poi ha esecuzione il rimborso o la trattenuta del 730, qualora sia privo di occupazione per svariati motivi, può presentare la dichiarazione dei redditi, modello unico, e quantificare poi il suo credito, che verrà poi utilizzato in sede di dichiarazione dell'anno successivo, dichiarazione 730 dell'anno successivo, per poter recuperare il credito in tempi celeri rispetto a quello che è il rimborso del modello unico. Mi sembra una buona notizia questa, insomma, io non me ne ricordavo affatto. 800 24 00 24, ancora naturalmente il numero verde è disponibile per le vostre domande. Sentiamo rapidamente Alfredo da Roma, a cui rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Alfredo, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi e una felice giornata a tutti quanti. Grazie Alfredo. Vorrei chiedere un'informazione. Io sono andato in pensione nel 2007, a giugno del 2007. Nel 2008 chiaramente ho fatto la mia dichiarazione dei redditi dei 730, cioè mia moglie che non lavora, però nel 2009, diciamo così, non ho fatto dichiarazione nel 2008 perché sono un pensionato, perché lì mi manda il CUD e in più mi manda il modello, che adesso non ricordo bene il numero del modello, dove dice che ci siamo familiari a carico. Infatti ho mia moglie e mio figlio che ancora non lavora, però percepisco anche la pensione da compagno, perché mi hanno dichiarato invalido al 100%, perché non mi posso muovere proprio. Adesso io cosa devo fare? Adesso il CUD che mi manderà l'INPS adesso me lo deve mandare praticamente, e mi manderà anche il modello, quello da compilare, che poi lo devo restituire. Io devo comunicare, devo fare 730 di entra, anche se abbiamo l'appartamento di nostra proprietà, che di mia moglie e mio. Benissimo. Alfredo, abbiamo capito, un caso di abbastanza facile gestione. Allora, stiamo anche un po' commentando con la dottoressa De Cio, che ha microfoni spenti, e ragionando sulle motivazioni che possono portare ad un'azienda a non essere così tempestiva nel rilascio del CUD. Dottoressa, ricordiamo che qualche volta anche il fisco ai commercialisti, alle aziende, fornisce le istruzioni per compilare questi modelli, proprio, come dire, all'ultimo secondo, per il rotto della cuffia, come si dice in gergo, non tanto giornalistico e neanche dei commercialisti, in sostanza. No, infatti quest'anno abbiamo ricevuto le istruzioni per il modello CUD del 2010, redditi 2009, alla fine di gennaio, quindi i tempi tecnici anche per le nostre software house per predisporre tutti i programmi, e quindi praticamente noi operatori siamo riusciti ad essere operativi intorno al 20 di febbraio. Ovviamente i tempi tecnici con un minimo di controllo, non è semplicemente un inserire i dati, stampare e via. No, c'è anche chi è particolarmente scrupoloso come lei, so che rifà un doppio controllo. Ovviamente sono dei dati fiscali finali che devono essere comunque certi, sicuri, e quindi anche per noi operatori abbiamo dei tempi tecnici così stretti che spesso non siamo in grado di rispettare rigorosamente, rigidamente la scadenza del 28, quindi, primo insomma, marzo non è, quest'anno. Esatto, quindi potrebbe anche essere che entro la fine della settimana, ecco, ancora sì, per chi non ha aziende tutti, in difficoltà almeno, certo, che magari deve rimettere un po' in sesto le situazioni dell'anno scorso, magari ecco date ancora qualche giorno di tempo. Esatto. Rispondiamo al nostro Alfredo da Roma, il nostro pensionato, che ci diceva intanto per quanto riguarda la sua pensione. Esatto, sì. Dunque dall'INPS lo stesso arriva al CUD. Arriva al CUD, tra l'altro mi risulta che non sia ancora arrivato, forse anche l'INPS è un po' in ritardo. Ecco. Comunque, in ogni caso, se l'ascoltatore ha solo il reddito da pensione e non ha null'altro all'infuori dell'assegno di accompagnamento, diceva che comunque è esente. Non deve fare nessun tipo di dichiarazione, a meno che non abbia magari spese mediche o perché spese magari qualche deducibili. Volta qualche persona ha un po' di confusione generata dal fatto che l'INPS ovviamente insieme al CUD allega anche certo il modulo per la richiesta magari delle detrazioni che deve essere compilato, però è un presenza... atto dovuto, quindi. Certo, un atto dovuto e che comunque non è legato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi insomma Alfredo, a meno che ci siamo persi qualche passaggio, può stare assolutamente tranquillo. Certo. Chi sentiamo? Allora, ancora magari un paio di persone che sono in difficoltà anche emotiva, se vogliamo, perché questo CUD non arriva. Enrico da Udine, buongiorno. Buongiorno. Beh, io intanto in difficoltà emotiva non sono molto, sono molto sicuro, per cui voglio solo denunciare un caso, soprattutto per chi è in difficoltà emotiva. L'azienda per la quale lavoravo, nella quale avevamo un portafoglio ordini di 6 mesi, è fallita per una cattiva gestione. Questo già è una brutta cosa. Io ero un dirigente, ero direttore commerciale, ma non ero a conoscenza del conto economico della società, eppure della situazione del controllo di gestione che non c'era. Abbiamo percepito lo stipendio di gennaio con regolare busta paga. Del 2009, Enrico? Del 2009. Sì. Però sulla busta paga sono indicati dei contributi trattenuti che non sono stati pagati. Dopodiché fino al fallimento dell'azienda, che è stato dichiarato in data 15 ottobre del 2009, alcuni hanno ricevuto, credo tutti, non lo so, io li ho ricevuti come dirigente, alcuni acconti, ma abbastanza esigui, acconti che sono stati corrisposti brevi manu, senza una busta paga. Senza una certificazione. Quindi nulla. Qui c'è una procedura fallimentare in corso, Enrico, per questa azienda, perché qua complica non poco la situazione. È in corso e ci sarà l'udienza domani, proprio per la situazione della distribuzione dello stato passivo, dell'insinuazione dello stato passivo. Certo, Enrico, adesso io non voglio mettere in eccessiva difficoltà la dottoressa De Cia, però detto questo, per queste persone ovviamente che magari vogliono avere così un'informazione di massima su come comportarsi con la propria dichiarazione dei redditi, perché poi chiaramente tutta gente che magari deve scaricare le spese sanitarie, certo, gli interessi sul mutuo e quant'altro, aspettare, che cosa fare? Beh, ovviamente l'azienda fallita con la dichiarazione fallimento sarà stato nominato un curatore fallimentare, è possibile comunque chiedere al curatore fallimentare l'emissione del modello CUD. Va da sé che anche per il curatore fallimentare sarà piuttosto difficoltoso ricostruire la situazione di ogni singolo lavoratore. Certo, visto che definire un imponibile chiaro. Esatto, non ci sono neppure documenti che certificano l'erogazione di compensi in acconto, come diceva l'ascoltatore. Se l'ascoltatore vuole comportarsi correttamente ai fini fiscali, dovrà dichiarare autonomamente gli importi che ha effettivamente percepito e effettuare poi un'autocertificazione dei redditi percepiti ed effettuare la dichiarazione sulla base dei redditi effettivamente percepiti. Fabrizio da Milano, invece, da quello che capisco, lo stesso, purtroppo lavorava per un'azienda fallita, non ha percepito stipendi, ma l'azienda le ha comunque consegnato il CUD. Fabrizio? Beh, diciamo che è ancora peggio. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. L'azienda per cui lavoravo è fallita e io non percepivo più lo stipendio da ottobre del 2008. Sono stato poi licenziato con raccomandata ad aprile 2009. Però io dal mese di ottobre non percepisco più lo stipendio, però ho il CUD del 2008 e ho il CUD del 2009, quindi io ho in mano un documento che dice che ho percepito dei soldi che in realtà non ho mai percepito. Ah. Quindi mi chiedo, fra l'altro il CUD del 2009 per averlo ho dovuto pagare io il consulente perché non me lo voleva dare, perché anche lui nel concorso fallimentare, quindi era in tutto il discorso. Quindi a questo punto io ho in mano un CUD, che è quello del 2009, in cui si dichiara che io ho percepito 4 mesi di stipendio, TFR e quant'altro, ma non li ho mai incassati. Quindi mi chiedo, devo dichiarare questi importi o attendere che si concluda l'iter fallimentare? Grazie Fabrizio, dottoressa Lecia. Mi rendo conto che stamattina gliel'ho messa tutta in salita la puntata, qualche un'altra volta le renderò le cose un po' più semplici, però no, purtroppo di fatto questo momento purtroppo, in cui la realtà è questa. Esatto. Ma allora, innanzitutto, se non ha percepito redditi nel corso del 2009, per il 2008 ormai l'anno fiscale si è concluso, sì, l'anno scorso, per il 2009 se non ha percepito questi redditi ovviamente non è tenuto a dichiararli. Anche lui non li ha percepiti materialmente, ma secondo il CUD li ha percepiti? Sì, il CUD però è un documento che certifica quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire. Poi chi emette il CUD, e quindi noi professionisti, si assume la responsabilità. Non sempre siamo informati se poi hanno avuto effettivamente esecuzione i pagamenti che noi andiamo a certificare, perché quelli li certifica comunque il datore di lavoro. Comunque, nel caso di una procedura fallimentare, il lavoratore avrà sicuramente effettuato l'insinuazione allo stato passivo, perché se c'è la procedura fallimentare, questo è quello che il lavoratore deve effettuare. In questo caso il lavoratore potrà comunque dimostrare al fisco, qualora chieda il pagamento di somme che vengono certificate indebitamente con il modello CUD, può dimostrare che effettivamente queste somme non le ha percepite in quanto inserite poi nell'insinuazione che avrà presentato al curatore fallimentare. Allora, ci manca un minuto di tempo prima di salutarci. Marco da Forlì, non riesco a sentirla, faccio io la sua domanda alla dottoressa Decia. E praticamente l'ascoltatore ha acquistato elettrodomestici di classe A, voleva capire come funziona la richiesta per gli incentivi fiscali che sono stati resi disponibili lo scorso anno. Credo che si possa indicare in dichiarazione dei redditi tutte quelle spese sostenute. Io ho queste date, dottoressa Decia, vediamo se il riscontro suo è corretto. Dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a patto che naturalmente il contribuente abbia ristrutturato casa, se non ricordo male. Sì, il bonus arredo riguarda il periodo che lei ha esattamente indicato, ma deve essere destinato ad arredare case ristrutturate. E naturalmente il contribuente deve aver sostenuto queste spese, o anche la data dal 1 luglio 2008, quindi da questo punto di vista c'era la retroattività, esatto, se non ricordo male. 20% fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun immobile. Marco, se non siamo state esaustive, ma il tempo corre, dobbiamo salutarci, ci scriva, le devo una risposta più completa, c'erano le spese per gli asili e tante altre cose da raccontare. Dottoressa Recia, la dovevo invitare di nuovo, purtroppo per lei. Molto volentieri. Grazie per essere stata con noi. Naturalmente anche voi scriveteci, io vedo che già stamattina erano veramente molto, molto interessati all'argomento, e allora noi ci ritorneremo, magari cercheremo di organizzare anche da qui a maggio degli appuntamenti periodici per guidarvi alla stagione della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata. Salvadanaio.